Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. Vi ricordo subito il numero dell'SMS che è 349-238-6666. Vi ricordo che avete anche la possibilità di intervenire nello spazio di Facebook Radio 24 Italia in controluce e nello spazio sia privato Daniele Biacchessi che quello di in controluce su Twitter. Di cosa parliamo oggi? Di quello che sta andando in scena proprio in questi minuti. Alle 15, come sapete, termina la possibilità di votare per 7 milioni di italiani alle elezioni amministrative. Ci sono centri molto importanti come Roma, come Siena, solo per citarne alcuni capoluoghi di provincia importanti. 7 milioni di italiani è un test politico quasi nazionale sicuramente, ma ormai sta andando in scena in queste ore quello che ho chiamato il partito dell'astensione, perché le elezioni in Italia dal dopoguerra ad oggi hanno sempre segnato un ottimo livello di partecipazione rispetto agli altri stati europei, anche rispetto alle dinamiche di altri paesi di grandi democrazie come per esempio gli Stati Uniti. L'ultima tornata amministrativa, cioè quella che è in corso proprio in questo momento, segna invece un crollo fortissimo dell'affluenza. Al di là dei dati, quelli che poi potremo dare dopo le 15, quindi oggi non parleremo, perché non lo possiamo fare, delle elezioni amministrative che sono ancora in corso, non è ancora iniziato naturalmente lo spoglio, non è ancora finito finita la possibilità degli italiani di esprimere con un voto, con il proprio voto, la preferenza. Ma il dato soprattutto sulle elezioni a Roma, che è lo scontro più importante, è a dir poco impressionante: meno 19% nella capitale di votanti e meno 16% a livello nazionale. In sostanza, gli italiani si sentono sempre meno rappresentati dai partiti e anche, aggiungo, dai movimenti, visto che le piazze venerdì sera, soprattutto quelle di Roma, erano semivuote. Però invece le stesse piazze vengono invase dalla società civile, da migliaia di persone, quando si tratta per esempio di celebrare figure diverse, come quella di Don Puglisi o Don Gallo, simboli cioè di un modo di agire politico dal basso. Perché questa totale disaffezione verso la politica, secondo voi? Secondo voi è un fatto dovuto a livello locale di queste elezioni, oppure il problema è più ampio e si potrà anche vedere quando si tornerà alle elezioni, a votare alle elezioni? Ci sono già alcuni importanti SMS, per esempio Maria Rosaria dice che l'astensione del voto può riguardare quanti non seguono gli ideali. I miei ideali sono sempre vivi, dice Maria Rosaria. Non si può pensare che la gente vada a votare quando alla fine molti trovano che la politica non riesca a dare delle risposte concrete ai problemi. Guido da Bergamo. 349-238-6666, il nostro spazio di Facebook, Radio 24 Italia in controluce, oppure in controluce, o il mio spazio privato Daniele Biacchessi su Twitter. Colleghiamoci subito con Andrea Viali, che sta seguendo l'andamento di queste elezioni, soprattutto di questi dati molto forti ma molto inequivocabili che hanno a che fare con la disaffezione. Eh sì, è così, Daniele, buongiorno. I numeri in parte li hai anticipati e fotografano un crollo che ha pochi precedenti. Si tratta, lo diciamo, di dati parziali, vedremo se nel pomeriggio saranno poi confermati da quelli definitivi. Comunque ieri a livello nazionale l'affluenza non è andata oltre il 44,6%, cioè ha avuto un calo superiore al 15%, quasi il 16% rispetto alla volta precedente. Lo dicevi, ci sono state punte che hanno raggiunto quasi il 20%, è il caso ad esempio di Roma, che tra l'altro è anche la città dove si gioca la sfida più attesa nel complesso. Lo ricordiamo, si sta votando in 563 comuni, Tra questi, oltre a Roma, c'è solo un altro capoluogo di regione che è Ancona, mentre i capoluoghi di provincia sono 14. L'affluenza ieri sera era in calo ovunque, con punte del 20% anche a livello regionale in Lombardia e in Piemonte, mentre la regione dove l'affluenza è stata più alta è invece la Campania, dove ha votato il 51,8% degli aventi diritto contro il 59,4% delle ultime elezioni. E c'è però da dire che ad Avellino, che è l'unico capoluogo di provincia campano interessato dal voto, l'affluenza è scesa di oltre 20 punti. Sicuramente, lo dicevi, si tratta di dati sui quali soprattutto le forze politiche dovranno interrogarsi per fare una prima analisi. Possiamo aggiungere come elemento che, ad esempio, quello climatico che conta in questi casi. Ieri il tempo non è stato particolarmente bello in gran parte della penisola, quindi molti italiani probabilmente non sono partiti per il weekend, non sono partiti per le gite fuori porta, ma nonostante questo hanno comunque deciso di non andare a votare. Questo è un elemento su cui ragionare. Poi sappiamo anche che normalmente l'affluenza più bassa in genere favorisce il centro-sinistra, si dice i suoi elettori sono i più attivi. Questa volta però c'è la novità del Movimento 5 Stelle e sarà interessante vedere come ha risposto il suo elettorato, l'elettorato grillino, dopo il buon risultato ottenuto alle politiche. Daniele. Bene, noi intanto seguiremo, così come già stiamo facendo, sono arrivati tantissimi messaggi, ne è arrivato uno da Giacomo su internet, se qualche partito Movimento 5 Stelle dice abbiamo vinto, gli sputo in faccia, dice Giacomo, cioè conferma il nostro ascoltatore su Twitter che la disaffezione è molto forte. Non votare si fa solo un piacere alla casta, scrive Massimo Foni da Bologna al 349-238-6666. Col maggioritario secco i partiti faranno praticamente quello che le pare. Un ascoltatore che naturalmente non si firma dice che dico menzogne perché dice ero a Roma in Piazza del Popolo e Piazza del Popolo era piena, cioè dove c'era venerdì il Movimento 5 Stelle. Allora, come mai tutti i giornali hanno parlato di piazze semivuote o semipiene? Piazza del Popolo per essere piena devono starci 100.000 persone e 100.000 persone non so se ci fossero venerdì sera. Comunque, un altro ascoltatore, Fabio, ci ricorda invece un'altra cosa che quindi dà ragione anche a quello che dicevo quando parlavo di figure diverse, cioè il fatto che le piazze, almeno così quelle degli scontri elettorali e amministrative erano certamente non piazze piene, mentre invece le piazze erano piene quando, a Palermo, per esempio, quando si è trattato di celebrare la figura di Don Puglisi, o a Genova, quando si è trattato di celebrare la figura straordinaria di Don Gallo, cioè simboli di un modo di agire, di un modo di fare politica, ma dal basso. Sono queste figure che ha ricordato lei che oggi sono il vero nostro punto di riferimento, scrive Fabio. Cosa si aspetta a fare a svolgere le elezioni in un solo giorno? Già molte nazioni, anche del cosiddetto terzo mondo, dice Pierluigi. Votare e poi tradiscono le promesse. Vedi la coalizione PD-SEL e l'accordo tra PD e PDL, scrive Sergio da Bergamo. Si votano le persone che hanno una coincidenza di obiettivi, come in questo caso non c'è nessuna forza politica che ha un obiettivo chiaro e definito, comunque in un modo per perseguire un obiettivo, scrive Flavio. Credo che sia Stefano, il disgusto delle elezioni precedenti è ancora troppo amaro in bocca. Vabbè, poi ci sono varie minacce, diciamo, ai politici, minacce di vario tipo che fanno anche un po' capire qual è lo stato e la situazione. Intanto leggo che certamente, innanzitutto ricordiamo che alle 16:45 andrà in onda il primo nostro speciale con Vincenzo Miglietta ed Elisabetta Fiorito, poi un altro speciale alle ore 18 dove seguiremo già dalle 15, 16, 17 nei giornali radio avremo già i primi collegamenti. Naturalmente non parleremo soltanto di Roma perché, come ci diceva prima Viali, i comuni in generale sono 563 e sono 7 milioni di elettori chiamati alle urne. Ci sono alcuni capoluoghi di provincia importanti come Avellino, Barletta, Brescia, Imperia, Iglesia, Isernia, Lodi, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Treviso, Vicenza e Viterbo. Ci sono molte città, la formazione delle liste fotografa anche il rimescolamento delle alleanze che è avvenuto a livello nazionale con la formazione del governo di larghe intese. Ad esempio, ad Ancona per il centro-sinistra corre Valeria Mancinelli, PD, Scelta Civica, UDC, Verdi, e per il centrodestra Italo D'Angelo, PDL e Lista Civica. Ma in lista ci sono anche vari altri candidati come SEL, uno di SEL solo di Rifondazione dei Comunisti Italiani e un altro invece di Centro Democratico. Una competizione anche con un certo interesse nazionale, quella di Brescia, nella seconda città della Lombardia dove il comune controlla parte della società A2A quotata in borsa, corrono pensate 10 candidati. Intanto continuano ad arrivare i vostri SMS, sono SMS naturalmente soprattutto di persone che avevano votato e che hanno detto d'ora in poi non voteremo più. Questa è la situazione che conferma anche le percentuali che vi abbiamo dato con il meno 16% a livello nazionale e meno 19% nella capitale dove si vota nello sconto più ampio. Ci sentiamo domani 13:30, un saluto a tutti da Daniele Biacchessi.